Aristoradio Convento, siamo in diretta. Buonasera, buonasera a tutti agli amici che ci stanno ascoltando, forse seguendo, forse vedendo, chi lo sa. Quello che conta è che siate connessi con noi. Buonasera da Master Nick, live da Ristoradio Convento, la web radio del convento di Ronato del Garda. Non sono solo, ovviamente in compagnia del mio filo scudero quando si tratta di dirette, quando si tratta di raccontarvi una nostra serata, solitamente impegnato a muovere le mani, anche a muovere la bocca, un po' meno, ma soprattutto muovere le mani, il nostro DJ Alex Angioletti. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Master Nick, grazie per questo momento di collegamento. Vari collegamenti. Io la cosa importante che voglio chiedere subito è: sei quello vero? Sì, sono quello vero. Sì. Sei quello vero. Perché abbiamo avuto ha avuto una piccola disavventura. Abbiamo, perché alla fine poi l'abbiamo condivisa un po' tutti insieme. Purtroppo. Magari ne parleremo tra un po'. Era una insomma, ovviamente un'anteprima, una bella battuta. E l'importante è che si sia tutto risolto. Non è proprio tutto risolto, tutto abbandonato, tutto rovinato. Però vabbè, non so queste. Poi ne parliamo assolutamente. Allora, serata strana quella di questa sera, questo sabato. Strana assolutamente sì. Intanto dal punto di vista meteorologico, saremo banali a dirlo, ma sta venendo giù una pioggia. Ma una pioggia, ma un'acqua che io non vedevo da settimane. Ecco, in effetti lo dicevano i nostri telegiornali, che c'era uno sbalzo di 10 gradi addirittura. E poi comunque aveva promesso di piovere tantissimo e l'ha fatto, in effetti. Sì, era atteso per domani, invece ci ha un po' anticipati. Quello che invece è la nota positiva della serata è, allo stesso modo, non aver mai visto così tanta gente tutta insieme. Almeno io non la vedevo dai tempi di Capodanno, probabilmente. No. Allora, praticamente la gente è veramente tanta, però è anche molto molto festaiola. Sì, non si è fatta abbattere dal brutto tempo. Ma assolutissimamente, anzi, ci ha riso su, ha fatto anche le corse per entrare velocemente all'interno del locale. Niente, sposa fortunata. Assolutamente, no? Ce ne sono tante stasera, ce ne sono tanti, anche di sposi, ovviamente, dei più vari colori, dei più vari abiti, dei più vari personaggi. Outfit, è vero, molto molto personali e molto molto personaggi, come dicevi tu. Vi racconteremo la nostra serata live, lo faremo dai microfoni di Ristoradio Convento, improvvisati, assolutamente. E lo faremo soprattutto anche a brevissimo, collegandoci con tutte le nostre sale per farvi vivere il momento live di Dericomania, il primo momento in cui ricordiamo i festeggiati, in cui cominciamo a scaldare un po' l'ambiente, come si usa dire nel gergo tecnico. Che secondo me non ne hanno proprio bisogno di essere scaldati, perché sono veramente sul pezzo. Allora facciamo così, li accompagneremo semplicemente, daremo il là come bravi direttori d'orchestra. Bravissimo, infatti dopo faranno tutto loro. Come sempre, d'altronde le nostre feste, le nostre serate non sono, come dire, complicate da gestire, perché l'entusiasmo, il divertimento e l'atmosfera sono così belle che è difficilissimo che non succedano, non ci si diverta, insomma. Non si ci diverta. È una cosa, durante la settimana io ho pubblicizzato sui social, in particolar modo il Facebook, perché mi è rimasto solo quello, appunto dopo andremo a collegare anche la disavventura. La nuova attrattiva del convento, gratuita, sempre gratuita. Sono io? Ah no. No, no, qual è? Qual è? Il Super Flipper record. Il Super Flipper, assolutamente. No, volevo che lo dicessi quello tu. Quello vero. Sì, siamo tornati vintage, ma rimaniamo moderni, ci piace così. E l'abbiamo inserito da poco, da qualche settimana, questo nuovo collaboratore della nostra ma c'avrà più di 30 anni quello lì. Sì, ma è 40. super vintage. Ciao. Intanto salutiamo il nostro regista Mr. Davy, che ci sta mostrando in tutta la nostra bellezza, poca ma quella che c'è. E ci basta. Secondo me sta scrivendo: Alex, è arrivato il momento di fare la lampada. Può essere che con la bella stagione dobbiamo cominciare a prendere un po' di luce in viso e in volto. Sì, è arrivato il flipper e quindi ne stanno approfittando in tanti. Approfittatene anche voi se vi va e se vi piace il genere. Quello che invece volevo ricordare, prima di cominciare con un po' di musica, molto importanti ovviamente i nostri contatti, partendo dal sito della nostra radio, www.ristoradio.convento.it. Tra l'altro non l'ho sottolineato, siamo in diretta Facebook ora e siamo anche in diretta YouTube. Quindi infatti, ho visto. Se siete collegati e avete modo di seguirci, lo potete fare, se no andate tramite il sito, tramite la nostra app che si chiama Ristoradio Convento. Invece, se volete sapere di più sulle prossime iniziative, sui prossimi eventi e appuntamenti del convento di Lonato, semplicemente convento.it, che è il nostro sito principe, come anche la nostra app principe, sempre convento, trovate tutto lì. Ma il convento è anche tanta buona musica, non sono suonata ma anche ascoltata, succede nella nostra radio, succede nelle nostre piste, succede nelle nostre serate. Può essere che questa canzone vada, a tutto il diritto di essere ascoltata, di essere sentita e soprattutto di essere ballata. Tre nomi: Sean Paul, Clean Bandit e Anne-Marie. Questa è Rockabye. The nights by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him your life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to stay up do stay up. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. In the hard life without no fear, just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never said tear. Cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, bang. Ed eccoci ritornati, bellissima. Assolutamente sì, Rockabye Clean Bandit, la canzone che avete appena ascoltato, Risto Radio Convento, live con Master Nick e Alex Angioletti DJ. Svegliamo negli un attimino. Studi, negli studi. Sì, negli studi, ovviamente, di Risto Radio Convento. Dicevo, svegliamo un attimino l'arcano. La frecciatina della battuta, esatto, della battuta dell'intervento precedente, quando ho chiesto al nostro Alex Angioletti se si trattava dell'Alex Angioletti originale, oppure, perché diciamo purtroppo ha subito quello che nel 2019 è, non dico all'ordine del giorno, sì, però una delle possibilità più frequenti usando i social network e usando le varie interazioni di cui noi, per quello che facciamo, dobbiamo cibarci quotidianamente. Facci un po' sapere cosa è successo. Allora, sono molto veloce. Praticamente l'applicazione Instagram, che conosciamo tutti benissimo, è la più usata. Praticamente è stata violata, il mio profilo è stato violato da un hacker probabilmente di provenienza russa. L'ho scoperto tramite le mail che avevano sostituito appunto il mio profilo, quindi impadronendosi nel mio profilo ed è diventando ufficialmente agli amministratori. Dopo di ciò, niente, non c'è stato verso di poter né contattare Instagram, perché comunque è un cane che se la coda con le varie assistenze. C'è stata solo la possibilità di scrivere due righe se o meno erano servite le spiegazioni dell'assistenza, non so se le hanno prese in considerazione, l'avevo anche scritto nelle due righe. Niente, loro si sono appropriati del mio account, del mio profilo, della mia persona. Virtuale, certo. E dopo H24, per fortuna, apparentemente, perché non so, l'acqua calma, insomma, può anche fa puzza, hanno cancellato il mio profilo. Ah, però, perdonami il paragone un po' infelice, perché chiaramente certo, è molto diverso. Al giorno d'oggi è un po' come perdere il portafoglio, nel senso che devi cambiare tutte le password, devi ricontrollare tutti i profili, riattivarli tutti, certo, disinstallare e reinstallare. Allora, torno a dire, con le dovute differenze, perché quando si perde un portafoglio si parla di documenti personali, bancomat, eccetera eccetera, certo, ma al giorno d'oggi con le password e tutto il resto bisogna cambiare tutto. Allora, io tra l'altro io ti dirò, te lo suggerisco, anche se siamo in diretta, come fosse una chiacchierata fuori, certo, microfoni, certo, un'applicazione di cui ti parlerò magari fuori onda, che è un generatore automatico di password. Praticamente tu te ne ricordi una, sì, che è quella per entrare all'interno, okay, dell'applicazione. Perfetto. Dentro l'applicazione puoi salvare i vari indirizzi, i vari Facebook, Instagram, tutto il resto, okay. Lui ti fa vedere la password che genera di 16 caratteri, completamente casuali, complicatissima, e tu dirai giustamente, come faccio a ricordarmela? Non c'è bisogno. Ci pensa lui. No, lui te la fa vedere, tu te la copi, è solo il primo accesso alla fine, okay, perché poi con Google Smart Lock fai ricorda password, sì, password. E se e tu puoi anche casualmente ogni mese dire, vabbè, facciamo un giro di rinnovo. Fai come si dice, rigenera password, lui te la rigenera, okay, vai a cambiare, quindi solo per la prima volta rifai il giro di tutti i social. Buongiorno, sì, è arrivata alla vicina di casa. È la vicina di casa che deve. Niente, allora vi saluto, sono stato molto veloce nelle spiegazioni, spero che sia anche ad esempio, è stata solamente una goccia nell'oceano, nella mia spiegazione, la mia testimonianza. Speriamo che state attenti possiamo perché risolvere, non so se ancora tutto mi sia andata bene, perché ancora è tutto da vedere. Al più presto. Ciao, ok, allora aspetta che vengo anch'io, ti seguo. Facciamo un saluto a tutti e grazie per averci seguiti. Sì, siamo stati molto brevi, lo so, ma dobbiamo correre a far partire questa serata, a divertirci insieme. Sabato Dinner and Dance, Convento di Lunato. A presto!